Buongiorno. No, non sto riuscendo qua, Saturno al massimo. giorni che si tocca a te, per un gavo, baliallo, mica così un cavallo. No, per questo ti prepara una mensolina, con rimetti quei piedi che si mettono all'interno del muro, che poi entra dentro la pensierina e non vedi niente, capito? Altrimenti, vero? Beh, se la tua cameretta è quella, è giusto che sia una cosa privata, ecco, anche se tua figlia, se la tua camera è la tua camera, ma infatti. Altrimenti la buonanotte anche per te. Il microfono per Giuseppe Leoncino. non sapevo, io ho dei manuali ancora di vecchi baracchini, ad esempio dell'FM500S, di qualche CTE, di qualche Alan, ho qualcosa conservata, anche se non ho più quelle apparecchiature, però ho qualcosa conservata, quindi magari poi dopo, se ne voglia, vado a dare un'occhiata, vediamo un po'. Andare a trovarle, capito? altri due, buonasera. Adesso se non vi disturbo a conoscere qualcosa, un ping pong a due, no, non mi è piaciuto. È un piacere ascoltarti, non ci sono problemi, vai tu per Gianni Capridua. Buonasera Gianni, però comunque ho acceso adesso, ti sento un po' trappare, lo sbaglio? No, per carità, sono stato io ad assillare la verità, solo che entra poco e niente, non assicciamo. Sì, ha sempre non male, sai che io sono il più grande in casa, dunque alla fine i fratelli più piccoli cercano sempre di imitare un po' i fratelli più grandi, tutto lì. Però diciamo, sì, gli piace, ma non c'è una passione assillata come la mia, ecco, tutto lì. E ogni tanto entra quando ne ha voglia e poi un molla riprende, fatto così, ognuno c'ha il suo carattere. Sì, sì, si è preso l'antenna lì da Fusaro, un baracchino non so da dove, e inizia, quando la voglia entra. Sì, sì, ce l'ho per Corsa Nera, sempre con quell'antenna piatta, non la smonta mai. È talmente piena di catrame, non lo smonta, quando viaggia non l'ha mai pulita. Adesso non vedo l'antenna quella. Vi chiedo permesso, 5 minuti di... massimo 10 di quel Rix che mi sta chiamando mia moglie, dobbiamo vedere una cosa assieme. Riprende voi due, rientro subito, vai Antonio. Eia, ci sentiamo dopo. E niente Gianni, ti volevo dire, tu c'è una bella collezione di apparati, se capita il giorno, sono curioso di vederli, è la verità. Salutamelo Antonio, salutamelo da parte mia. Eia, Francesca. Invece Gianni di Porto Torres, che ti saluta solo che non ti copia. tutti, il doppio Luca vi supercordializza. vicini, ma ti sento un po' trappare la verità. Diciamo, sì, una via di mezzo, vai, sei stato di Cicala, perché è Cicala, poi ti divide la zona vecchia del paese alla nuova. Dopo che affronti la salita, quanto fai? 20-30 metri, sulla destra c'è un piccolo cortiletto e si vede questa antenna. Io se riesco questa settimana mi avvicino, provo a chiedere, a suonare, a vedere un po' di chi sia, e se c'è l'apparato vedo un po' di convincerlo, quasi che lo conosca anche. Buonasera Gianni Doppio. Ciao, anche a Gianni, come? Cappagliato, vicino di tutti qua, sto riprendendo a casa, mi ha accompagnato con l'amico che si è regalato due porte e sono stato una mano a scendere. Si è regalato due porte che le ho cambiate davanti a lui. Cavalla, brava. Stavo lavorando tutto il giorno, non mi sono fermato una. L'importante è lavorare, però spero che dopo che tu gli hai regalato le porte ti hai ripreso l'apparato. Te l'ho lasciato. Come dire, praticamente allora 48 DSX, quello che ha il circuito diverso dalla lampada 48 normale, che è cercato a microchip. E l'avevo fatto modificare io a Cagliari. L'avevo fatto per la macchina mia, poi ho visto quello che ho adesso io, l'ho visto l'uovo sulla rivista, eccetera, eccetera, ho venuto quello che ho preso per l'uovo. Ascolta, e quando gli ho chiesto di portarglielo via, cosa ti ha detto lui? Stava ridendo, perché come dire, non lo dà nessuno questo. Ma ne ha 5 così modificati lui. Ma lui non moduna mai, non l'ho mai sentito. Ma agricola, non l'ho mai sentito. Ah, farra agricola, patata. Che ha pagato, passassi dalle 12 e mezza col trattore, lavorando, così. Quello già è vero. Adesso ti passo a Gianni Capidue, avanti, e saluti a Gianni Doppio. Ti giuro che mi trovi spiazzato, perché stiamo parlando un bel po' di tempo fa, guarda, io abitavo in Truita, cioè nella zona dove c'è la chiesa di San Bartolomeo, dalla casa dei miei genitori, e non ci entravo molto alla Literai, perché all'epoca c'era gente non tanto tranquillo, un po' prepotente, se arrivi in quella zona prendevi calci nel sedere. Dunque, diciamo, da piccolo levitavo sempre quella zona, facevo sì intruita, centro del paese, e sospiano, l'Iderai era una cosa rara che salivo, e dunque mi trovo spiazzato in questo, diciamo, in questa domanda che mi hai fatto, perché proprio non era più pallida idea. Comunque questa settimana, se riesco, mi avvicino e chiedo un po' informazioni, può darsi che non costa niente, suoni, mi apra veramente chi abbia l'antenna e mi dia delle informazioni, che ci sia anche, diciamo, il vecchio padrone, mi faccio dire qual era il suo nominativo quando modulava, poi dopo da, diciamo, cosa ne esce fuori, così mi voglio togliere uno sfizio, la verità. Lontano stai. mettono anche la paraburica sopra un tetto. Posso fare anche a Buffio, lei sono le poste, la tesi è le poste. non c'è problema. E c'è anche oggi Andrea, che mi sta lasciando le bottigliette per fare i campionamenti, mi sono fermato con il mio collega, ci aveva preso un aperitivo. E poi sono andato a casa, e passo quasi tutti i giorni, passo la mattina a prendere il caffè, e poi quando sto rientrando, intanto scendo, salgo la scala di ciocca, quindi viene il passaggio. Fermo quasi tutti i giorni a letterarmi le bottigliette dai campionamenti, quelli di pratica piccoline, e poi prendiamo sempre una cosa e io ti faccio un colpo di citofono. Ehi capo, che comunque se vuoi fare una cosa si deve un quarto ogni mattina da Andrea, gli lascio il pane, il latte o il mangiare. Ti pare il capo già costa poco, già glielo metto davanti alla 10 faccellette, glielo metto davanti al coso, ho detto il giorno che passa qualcuno si sobbussa con il game. Come lo vedo quando sono le 7 è già pieno di gente e poi ci andrò con quella ragazza che apre, ma non andrò il padrone, quella ragazza si chiama Andrea. Che già tutto è parte, è tutto. È un bel barbaro attrezzato, ben ordinato e soprattutto ha una bella accoglienza. Vabbè. Allora già quando rientro già ti faccio uno squillo. E se non ti cito fa un campanello. Intanto sono lì. Speriamo di entrare presto. Che ci sia la signora Giorno, non più metti di balle. Ah, no, non ci sono più metti di balle, non faccio parte. Speriamo, almeno. Alleluia. Dovrebbe essere a posto. Non fa un po' la nuova. Nuovo amplificatore, sono bestie. Oh bestia, solo che mi pare che mi stia crepando, lo sento proprio uno del deviatore che mi stia crepando, il deviatore d'antenna, perché quello è sino a 500 watt, questo è alla massima potenza. Intorno ai 900-950 l'importante è più di 1000 modulati, quindi mi sa che me lo sta trattando. È un bello che mi chiamo poco un bel di sai che riccando mi sta simulando me. Questo è della Proxel, cioè della Live, l'altro della Proxel e tiene 500 watt. Questo minchia cazzo, sempre a quello 2000, bellissima, è grande quanto il coso, il tirano 22, uguale preciso identico, però è 2 kilowatt anziché 1 kilowatt. Ma la lateralità 1750. Auguri a te, Valice. Ti mancherebbe. Tanto è bello perché c'è tutto. C'è un rosmetro uguale, un rosmetro uguale, preciso identico. C'è scritto c'è un doppio in grande, l'altro watt, l'altro modulatore per vedere oscillamento della nodica, se poco è mano, l'amplificatore d'antenna, scusa, tutto va, cazzo, televisore, il rosmetro uguale, Antonio, è preciso, identico, è un rosmetro messo dentro il coso, c'è scritto se vuole 1, poi barrette 1,5, poi barrette 2, cazzo di è, infatti non ci faceva portante, ci regola automaticamente in base alla regolazione che tu le dai dei watt. C'ha il 7, le dai il 7, e poi lui ti dà il watt, ti dai le stazionate. Minchia, che bello questo. Bello veramente. L'unica cosa è sistemare le altre cosette che ci sono da fare qua, e poi siamo accavati, finito, diamo un po' di spazio anche agli altri, e poi ci abbiamo il culo. Quando vai da piccolo dell'Ailon, cioè delle tiranti, dove ne siamo solo a lanciare? In modo così con l'antenna, perché il palo va bene. Ho fatto a muovere con quella gaffa, ma la gaffa solo si muove parecchio, si muove. Perché con quelli di fregoni mi fido molto. Se arriva così questo temporale forte, non potevi prendere fuoco. Dunque si deve mettere, perché c'è un provvisorio o qualcosa, non è che poi devo cambiare zona dell'antenna, devo fare i fori, appena recupero un po' di soldi faccio i fori e la installo come si deve, accanto alla finestra della mansarda. Poi dove c'è la parola del condominio, addirittura. Non mi ha telefonato, mi ha detto niente, la gente pensa neanche mi sarà bene. Solo che non posso fare altri buchi, capito? Solo girare magari le palle e quello. Solo aveva fatto un foro e è rimasto se capito lì. Aveva messo di quei tasselli a uno, a espansione, e l'avevo bloccata così. Non parlo così di quel palo, dove ho messo palo per dire l'acqua e l'avevo bloccata. E invece ho messo così, mi sono girato di coglioni, stava l'antenna da quella parte dove c'è il tubo del gas, il tubo dell'acqua, è pericoloso. Cioè mi sono visto il fulmine vicino, e se mi becca di lì, tanto bisogna fuoco io in casa. Meglio che fia fuoco la parabola che le abbia in culo con me. Ui, ma infatti, non è chiaro Antonio. Tra le volte facevi problemi, le mettevamo il tassello chimico col parotto, non ci sono problemi, mi ho fatto due lavori gerarello che è micidiale, ho messo una camera a un tubo alto 8 metri, con una calandra e una sella a tasselli chimici, che la giumai manco la scavatore di muovi, stai scherzando, sono micidiali quei tasselli, ho detto se hai problemi avvisami, non mi hai detto niente, pensavo hai risolto diversamente. No, l'ho messa provvisoria qua, quel giorno che ho fatto quel temporale forte mi è passato il fulmine vicino a me. Questo è stato forte, allora ho preso e staccato tutto da lì e adesso c'è la parabola. Non capisco che via fuoco la parabola del condominio, che lì dove c'è l'antenna c'è il tubo del gas, il tubo dell'acqua, hai capito? O contattore, sia l'uno sia l'altro, e se dovesse succedere qualcosa di lì, col gas è venuto in salti. Già lui non ti serve tanto, e lui bisogna stare molto attenti, sennò è un bel casino. Ma io, la verità, non ne avevo mai usato qua, ho detto che ci ho intarmato sopra, ho fatto il tassellatore, ho farato direttamente, ho messo le staffe di quelle a corso. Tassello stretti bene a morte con la pinza a pappagallo, sono eterne quelle staffe, ce l'avevo vent'anni l'antenna con le staffe, non è mai, pure non ho manco tirati, vabbè perché i miei tubi più alto è non è neanche 4 metri. Adesso è alto 6 metri, no? È anche troppo così. Ma l'ho fatto per essere un po' più distante dalla 510, perché con la potenza che uso io può essere pericoloso magari qualche rientro di RF e mi crea problemi all'antenna. Allora ho dovuto sollevare altri 2 metri, però va tutto alla grande senza problemi. E meglio così. Ma io perché l'ho fatto per un motivo lì? Ho peccato la novella perché quel giorno che è sceso il fulmine mi sono spaventato forte. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia, da quando sono qui a Carbonazzi, mai, né? Una cosa così. Allora l'ho peccato l'altro giorno, era messa dove c'era quella che passò. Adesso che ti ho detto la parabola. E poi sono bloccata con questo fil di ferro sotto la gamba della PVC satellite proprio, e quindi c'avevo altro la verità, e quindi per quello adesso voglio sistemare provvisoriamente così come adesso. E poi come ho fatto i buchi, che ho i soldi, per i soldi faccio il buco come si deve, faccio il bello tranquillo, non sono un problema di fuga, di cosa e niente. Cambia che parlo, mi parlo se ti riscoprico, purtroppo non mi fido per niente, perché parla parecchio, parla un bel. Se la messa la volta va già parlata in terra. Con la potenza settore con l'ancora già tiene, ma con la mano è troppo pesante, no? L'ho vista muoversi, il tubo lo muovo con la mano, figurati, si muove di un centimetro, non parte un centimetro dall'altro. E quindi conduzione provvisoriamente, vabbè, adesso con quel tempo che arriva, con quel vento forte, speriamo che non sia forte e forte come comunque la volta scorsa, già tiene, poi appena passa un po', tanto dura, mi sembra una settimana questo temporale, perché dovrebbe esserci un nuovo tempo buono. Mi sistemo come si deve le cose, faccio i fondi, tassello chimico e via, e non la tocco più. Infatti una volta che è piazzata bene non si tocca una cosa, ci sono che muovi, gaga, e alla fine tutto il lavoro che hai fatto te ne cade sotto. Ma io salgo ogni tanto, ogni mese, ogni 2 mesi, a vedere se è tutto a posto nel batto, ma no. Quando qualche mercoledì fa ero libero, sono salito perché dovevo togliere l'antenna dall'autostrada a 510, l'ho messa dall'altra parte interna, sono finito tutti i lavori che c'erano da finire, ho tirato sul depot quello orizzontale, ho tirato su 4 metri con le due carrucole e poi ho finito di piazzare la direttiva e basta. In modo che sia tutto a posto e tutto sotto controllo, per il resto va tutto bene, va tutto bene, non ci stanno problemi, va bene. Ok, allora dai, ti lascio, me ne vado a nanna, dopo facciamo le prove, spegniamo l'amplificatore che era in stand by. Spengo tutto e ci sentiamo alle prossime, a domani. Ciao Antonio, buonanotte. Saluto Ventori e saluto Piero all'ascolto. Ciao. Allora domani, ci sentiamo domani. Allora bene, con tutto, con la buona, e ci sentiamo domani, non c'è problema per quello. Buonanotte. Ventori, ti faccio uno squillo, non sono sotto domani. Con la speranza di rientrare presto, allora Dio ci viene andato anche bene. Per l'una, credo insomma di essere sassi. Salvo che ci sia qualche problema, comunque già ti avviso. Ci sentiamo, ciao, buonanotte.